giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caccia i responsabili dell'omicidio a Gorizia del 41enne Walter Pappalettera, picchiato a morte domenica nel garage di casa. Prima di morire era riuscito a chiedere aiuto. Crisi Varsila, oggi il vertice in regione con l'azienda. La crisi di governo incide sull'apertura del tavolo nazionale. Giovedì sciopero e manifestazione sotto la prefettura. Coronavirus e contagi finalmente in calo in una settimana, ma per parlare di discesa della curva bisogna attendere la conferma nei prossimi giorni. Dopo Trieste, Gorizia e Pordenone, oggi al via le somministrazioni delle quarte dosi a Udine, Tolmezzo e Palmanova. Il 90% dei turisti che ha scelto il Friuli Venezia Giulia ci tornerebbe volentieri e 8 italiani su 10 sono interessati a visitare la regione. Confortanti i dati di un rapporto commissionato da Promoturismo FVG. Statistici di tutto il mondo in congresso a Trieste, l'applicazione di modelli agli ambiti più svariati, dallo sport all'economia, dalla medicina alla biologia, ospiti 200 ricercatori da oltre 30 paesi. Spettacoli, il soprano Carmela Remigio al Castello di San Giusto per il progetto Beethoven, il regista premio Oscar Ashkar Farhadi a Gorizia per il premio Amidei, a Miramare parte Shakespeare in the Park. Tennis, presentati gli internazionali di Cordenons, il 24 luglio partirà il torneo femminile, dal 31 luglio toccherà agli uomini. In corso il torneo ATP Città di Trieste, avanti l'azzurro Francesco Passaro, oggi in campo il francese Simon, già numero 6 del mondo. Sono le 7.19 di martedì 19 luglio, buongiorno da Ludovico Fontana e Andrea Covri in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale del Friuli Venezia Giulia. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo è sereno poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6, a Trieste 25,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi, a Udine 22 gradi, a Gorizia 21,5, a Pordenone 19,5, a Tolmezzo 20 gradi, Forni di Sopra 16, Piancavallo 12,5 gradi, Sappada e Tarvisio 11,5 gradi, sul Monte Zoncolan 14,5 gradi, Monte Lussari 12,5, tornando sulla costa a Lignano 26 gradi, a Grado 24,5, temperatura del mare 25 gradi. Le previsioni dell'ARPA, oggi il cielo sarà in prevalenza sereno con caldo abbastanza secco, sui monti poco nuvoloso al pomeriggio, specie sui settori più interni, sulla costa soffierà borino al mattino, venti di brezza anche sostenuti al pomeriggio. Ora le notizie, continuano le indagini sull'omicidio di Walter Pappalettera, il 41enne picchiato a morte nel suo garage a Gorizia. L'unica certezza è che si sia trattato di una spedizione punitiva maturata forse negli ambienti del traffico di stupefacenti. E caccia gli uomini che hanno ucciso Walter Pappalettera picchiandolo nel suo garage nel pomeriggio di domenica. Almeno 2 secondo le primissime ricostruzioni, 4 secondo altre. Sono tutte al vaglio della procura che lavora assieme alle forze dell'ordine per assicurare gli assassini alla giustizia. Quello che pare certo è che si sia trattato di una spedizione punitiva. Pappalettera, 41 anni, con problemi di tossicodipendenza, da cui con difficoltà stava cercando di uscire, viveva da qualche tempo in casa dei genitori in un'elegante palazzina di via Garzarolli. Nel primo pomeriggio di domenica era sceso in garage per lavorare sulla moto, ma non è più risalito. Il pestaggio è avvenuto tra le 15 e le 16. È stata la stessa vittima, agonizzante e sicuramente non lucida, a chiamare qualcuno, forse il figlio, raccontando di essere stato picchiato da 2 uomini. È stato quindi avvertito il padre di Pappalettera, che era in casa e che, scendendo in garage, ha trovato il figlio esanime in una pozza di sangue. A nulla sono serviti i soccorsi, sarà l'autopsia a chiarire i motivi del decesso, anche se sul capo dell'uomo si trovano diverse ecchimosi e ferite lacero contuse, come se fosse stato colpito con forza con un oggetto. In zona, nonostante il cartello fuori dal portone, non ci sarebbero telecamere nelle immediate vicinanze che possano aiutare a trovare i responsabili. Ci farebbe stare un po' più tutti più tranquilli, sono sincera, anche se immagino che possa rientrare nell'ambito del giro che lui aveva scelto, insomma, quindi diciamo che da un certo punto di vista non sono preoccupatissima, però sarebbe auspicabile, no, che la giustizia facesse il suo corso e che venissero presi, trovati. Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La crisi Varsila a Trieste, oggi l'incontro fra regione e azienda alla quale viene chiesto di ritirare il piano di dismissioni. Ieri il vertice fra istituzioni Confindustria, Fincantieri e sindacati, chiesta l'istituzione di un tavolo a livello nazionale, ma la crisi di governo rischia di complicare le cose. Intanto per oggi i sindacati hanno organizzato un'assemblea con i lavoratori per organizzare presidi in fabbrica e pianificare le prossime azioni di lotta, a partire dalla manifestazione sotto la prefettura di Trieste indetta per giovedì, alla quale è stata invitata a partecipare tutta la cittadinanza. Un tavolo di crisi da aprire al Ministero dello Sviluppo Economico entro fine luglio e la promessa che Trieste e il Friuli Venezia Giulia si muoveranno come un unico sistema territoriale per tutelare il polo produttivo di Varzila a Bagnoli della Rosandra e i 450 addetti che ci lavorano. È quanto emerso dall'incontro tra sindacati e istituzioni, da una parte le sigle confederali dei metalmeccanici FIM, FIOM, WILM, che incassano l'appoggio della regione, dall'altra il presidente Fedriga, gli assessori al lavoro e alle attività produttive Rosolen e Bini e il sindaco di Trieste Di Piazza. La regione ha poi incontrato anche il sindacato UGL e i rappresentanti USB delle centinaia di lavoratori dell'indotto Varzila. Sentiamo il segretario nazionale della FIM CISL, Massimiliano Nobis. Il presidente Fedriga insieme agli assessori presenti hanno dato disponibilità di seguire l'avvertenza e di fare parte comune per affrontarla come sistema territoriale. Questa avvertenza ha una caratura nazionale. Prima di tutto perché Varzila non ha solo una sede produttiva qui a Trieste, ma anche in altri siti nella penisola italiana, e poi appunto perché fa parte di una filiera importante come la cantieristica. Il governo finlandese, abbiamo conoscenza che ha stanziato più di 100 milioni a fondo perduto per sostenere il progetto di riconversione dell'attività di Bagnoli in Finlandia. Noi ci aspettiamo che il governo italiano intervenga con una cifra almeno pari per mantenere qui la produzione. La regione sta lavorando perché Varzila ritiri la procedura di chiusura dell'impianto produttivo, ma sulla possibilità di portare l'avvertenza a livello nazionale pesa il rischio della crisi di governo. Intanto CGL, CISL, WIL e USB hanno indetto per giovedì 21 luglio pomeriggio un presidio dei lavoratori delle aziende in crisi del territorio davanti alla sede della prefettura in Piazza Unità. Non solo Varzila quindi, ma anche Flex e prosciuttifici ex Principe. Tra tutte quante sono 1200 i posti di lavoro a rischio in città. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Contagi da coronavirus in calo per la prima volta in Friuli Venezia Giulia dopo un mese e mezzo. I nuovi casi registrati ieri sono 369 rispetto ai 554 di lunedì scorso. Un dato che, se si consoliderà oggi e nei prossimi giorni, significherà il raggiungimento e il superamento della fase di picco. Cala anche l'incidenza, che si assesta a 1133 casi per 100.000 abitanti in una settimana, dopo una crescita che durava dal 3 giugno. Il tasso di positività è del 16,9% ed è a sua volta in calo. Continuano ad aumentare invece i positivi negli ospedali, ora sono 289, 17 in più in 24 ore. Stabile a quota 6 il numero di pazienti contagiati dal virus in terapia intensiva. Ieri si sono registrati 2 decessi a Trieste e a Pordenone. Parte oggi la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid per persone fragili e ultrasessantenni nell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Le sedi sono l'Ente Fiera di Martignacco e gli ospedali di Tolmezzo e Palmanova. La SUGI effettua invece i vaccini già da giovedì nella centrale idrodinamica a Trieste, all'Ente Fiera di Gorizia e al centro prelievi al piano terra dell'ospedale San Polo di Monfalcone. L'azienda sanitaria Friuli Occidentale li eroga nella cittadella della salute di Pordenone, all'ospedale di San Vito al Tagliamento e al distretto di Sacina. La cronaca: un incendio si è sviluppato ieri in mattinata in un negozio di animali del centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco. Una dipendente è rimasta leggermente intossicata. In questo caso, secondo i vigili del fuoco di Udine, le probabili cause potrebbero essere di natura elettrica. Nel rogo sono morti anche una quindicina di animali, piccoli roditori e uccellini. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino a ieri sera per la presenza di fumo e alcuni piccoli focolai. L'incendio sul Carso sloveno che minacciava il versante italiano, nettamente migliorata la situazione sul terreno. Dei 400 ettari di bosco bruciati in 2 giorni, solo 30-40 ettari ieri sera presentavano ancora dei piccoli focolai attivi che i vigili del fuoco sloveni da terra sono riusciti a contenere grazie anche all'intervento di 2 elicotteri. Sono invece rientrati gli elicotteri volontari della Protezione Civile Regionale che monitoravano la situazione e avevano allestito un vascone per l'approvvigionamento d'acqua per gli elicotteri. Le operazioni di bonifica proseguiranno oggi per tutta la giornata. Nuovamente sotto controllo anche il focolaio dell'incendio di Bibione, che ieri si era riattivato. Sul posto sono dovuti tornare a operare anche i vigili del fuoco di Latisana, decisivo per contenere il rogo, anche in questo caso l'intervento dall'alto di un elicottero. Cambiamo argomento e parliamo di turismo. Secondo una ricerca, il Friuli Venezia Giulia ha un forte appeal sui vacanzieri italiani e fra coloro che sono già stati qui, 9 su 10 tornerebbero volentieri. Il Friuli Venezia Giulia è tra le destinazioni più gettonate d'Italia e si colloca tra le mete turistiche di interesse medio-alto, insieme a Trentino Alto Adige, Toscana, Sardegna e Calabria. Ad affermarlo è una ricerca di Promoturismo FVG che certifica come il 90,1% di coloro che avevano già visitato la nostra regione avrebbero voglia di tornarci in vacanza, a dimostrazione della forte potenzialità di fidelizzazione del turista. Tra le mete più conosciute e apprezzate, le regine sono Lignano e Trieste, seguite da Grado e Udine, più in basso gli altri due capoluoghi, Gorizia e Pordenone, e le aree montane con la Carnia, che presentano comunque indici di gradimento in rialzo rispetto al passato. Punti di forza del Friuli Venezia Giulia sul piano turistico sono i prezzi accessibili, i servizi efficienti, la facilità di raggiungimento dall'esterno, la varietà di paesaggi e la ricchezza storico-culturale, l'ordine e il rispetto dell'ambiente, ma soprattutto la sicurezza, una voce sempre più importante nel post-pandemia. L'assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini. Sono i dati che dimostrano quanto il Friuli Venezia Giulia sta correndo in questi ultimi anni, quanto è cresciuto. Poi anche come presenza abbiamo già dei confronti dati rispetto a una stagione meravigliosa, quella del 2019, siamo sopra anche lì, maggio-giugno 19, maggio-giugno 22, sopra del 4,5%. Occorre procedere su questa strada, ha detto il presidente regionale Fedriga, puntando sull'ammodernamento della capacità ricettiva, il potenziamento della collaborazione tra pubblico e privato, l'uniformità e coerenza comunicativa, anche nell'ottica di intercettare maggiormente un turismo di fascia alta. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentati i risultati del progetto dell'Università di Udine Cantiere Friuli, elaborate proposte per un rilancio economico, sociale e ambientale del territorio. Tra queste la maratona di idee, il protocollo d'intesa per lo sviluppo di Udine come città universitaria, la rigenerazione di Borgo Grazzano, lo studio per un piano di eliminazione delle barriere architettoniche e un portale per il riutilizzo delle attrezzature dismesse. Ma sentiamo Roberto Pinton, rettore dell'Università di Udine. Siamo partiti considerando degli argomenti di forte, diciamo, impatto territoriale, dal fatto della diminuzione della popolazione, lo spopolamento di alcune aree, la necessità di rigenerare territori urbani, la necessità di individuare ambiti economico-produttivi o potenzialmente in crisi o potenzialmente invece con prospettive di sviluppo, e anche occupandoci di aree che magari occupano una buona parte della nostra regione, il Friuli in particolare, come l'area montana, ma che vivono in maniera più diciamo sentita questo tipo di criticità. Ecco, riguardo a questo, c'è già un progetto in cantiere ed è magari più localizzato, cioè restringe il campo della sua visione? Cercheremo di focalizzare su alcuni temi. Dicevo il tema della montagna, che sicuramente è assolutamente importante, il tema della diminuzione della popolazione, ma soprattutto spopolamento di alcune aree. Una cosa che stiamo facendo con grande attenzione è non solo il fatto che vi sia lo spopolamento, ma anche la fuga dalla regione dei giovani che stanno verificando giorno dopo giorno, cioè in realtà un grande sforzo preparatorio e poi si assiste a questa fuoriuscita. Se non vi è un analogo ingresso, è chiaro che questo può essere un grosso problema anche per lo sviluppo di questo stesso territorio. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Illustrati a Gorizia i punti focali del protocollo d'intesa stipulato da Regione, Camere di Commercio, Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa e ANCI a supporto dei comuni nell'accesso alle risorse del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obiettivo è quello di creare sinergie per facilitare i comuni nell'accesso ai fondi, risorse che per il Friuli Venezia Giulia ammontano oltre 1,5 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno, con la prossima approvazione del bilancio di assestamento, 5,2 milioni sul fondo di rotazione di 17 milioni, istituito nel 2021 per finanziare le progettazioni dei comuni sulle missioni del PNRR. L'ex presidente di Apple, Marco Landi, parteciperà questa mattina a un incontro dal titolo Transizione digitale e intelligenza artificiale per la competitività delle imprese, organizzato da Confindustria Udine. Unico italiano ad essere stato ai vertici di Apple negli anni 90, Landi è oggi presidente dell'Istituto Europea, associazione per una visione umanistica dell'intelligenza artificiale. L'appuntamento, a cui parteciperà anche il governatore Fedriga, è alle 11 a Palazzo Torriani a Udine. Circa 200 ricercatori provenienti da più di 30 paesi del mondo, dalla Nuova Zelanda al Brasile, dagli Stati Uniti all'Indonesia, partecipano a Trieste alla 36esima edizione del workshop internazionale di Statistical Modeling, modelli statistici, che è cominciato domenica e proseguirà fino a venerdì nelle aule dell'edificio D dell'Università di Trieste, in Piazzale Europa. Temi di discussione: l'applicazione della statistica alle discipline più svariate, dalla medicina all'economia, ma anche allo sport e alla biologia, come ci spiega il coordinatore del convegno, il professor Nicola Torelli dell'Università di Trieste. La prima giornata si è aperta con un corso che riguardava i modelli statistici per la previsione dei risultati calcistici. Ieri la prima relazione, la relazione plenaria tenuta da un collega del Politecnico di Losanna, riguardava per esempio i modelli per cercare di capire qual è, diciamo, il termine ultimo a cui un uomo può arrivare con la vita. Questi sono modelli che si stanno studiando moltissimo adesso per capire se appunto esiste, diciamo, un termine massimo per la vita di un uomo, sfruttando i dati più recenti che ci dicono che il numero di centenari, cioè di persone che hanno più di 100 anni, o gli ultracentenari che hanno più di 110 anni, cresce, e quindi cerca di capire quale sia il limite, diciamo, per la vita di un uomo. E questo ovviamente richiede l'uso di dati statistici e di modelli statistici. E a quale risposta si è arrivati? Le risposte ovviamente sono sempre risposte provvisorie, come sempre nella scienza, poi ci si aggiorna, e la relazione ci mostrava che buona parte dei risultati indicano che il massimo limite oltre cui può andare la vita di un uomo è superiore ai 130 anni, ovviamente. Queste sono stime, vuol dire che si può arrivare a quello, anche perché qui ci si basa su dati che ovviamente hanno un'evoluzione storica, no? I dati che osserviamo adesso sulla mortalità non sono quelli di coloro che sono nati adesso, ma sono quelli di coloro che sono nati 100 anni fa, dei centenari. Quindi, facendo una proiezione, si arriva a dire, l'età massima di un uomo è da 130 in poi, sapendo che adesso, per esempio, la persona che è stata osservata come massima età ne ha avuti 118, ma ripeto, 118 vuol dire che stiamo parlando di una persona che è nata all'inizio del secolo scorso. L'AMPI, l'associazione partigiani del Friuli Venezia Giulia, deplora in una nota la concessione del patrocinio dei comuni di Manzano e Capriva del Friuli alla manifestazione della Federazione Nazionale Arditi d'Italia, programmata per i prossimi 30 e 31 luglio a Sdricca di Manzano, luogo in cui nel 1917 vennero creati i primi reparti degli Arditi. Secondo l'AMPI ci sono tutte le prerogative di una manifestazione di ispirazione fascista, con richiami incompatibili con i valori di patria e di democrazia su cui si fondano la nostra Repubblica e la nostra Costituzione. Per questo AMPI auspica una netta dissociazione delle amministrazioni pubbliche citate nel manifesto che propaganda l'appuntamento. Sono diversi gli appuntamenti in regione per commemorare i 30 anni dalla strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, fra cui Eddi Cosina, originario di Muggia. A Trieste alle 11.30 si terrà in particolare una messa in suffragio di Eddi Cosina. A seguire verrà deposta una corona di fiori al cimitero di Muggia, dove riposa. Cambio di comando alla base aerea di Aviano. Il generale statunitense Bailey ha lasciato la guida del 31esimo Stormo. Al suo posto è arrivato dalla Virginia Ted Clark, che ha rassicurato i cittadini sulla sicurezza di Aviano. Cambio di comandante americano alla base aerea di Aviano. Dopo 2 anni difficili, caratterizzati da Covid e rischieramenti, il generale Jason Bailey lascia la guida del 31esimo Fighter Wing in direzione Pentagono. Ha ricordato le grandi sfide, le più grandi mai affrontate dallo Stormo, ha detto, che però hanno forgiato collaborazione e amicizia con gli alleati. Si è poi rivolto scherzosamente in italiano: la prossima volta più prosecco e meno emergenze. È stato insignito di una medaglia per meriti di servizio anche per l'impegno in Europa in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Il nuovo comandante, generale di brigata Ted Clark, ex pilota di pattuglia acrobatica, orfano di padre, morto in Vietnam, arriva da Arlington, Virginia, dove dirigeva l'Electromagnetic Spectrum Superiority, sede di pianificazione e controllo delle operazioni militari terra, aria e mare per la guerra informatica. Sulla minaccia di un conflitto nucleare, in generale sulla sicurezza di Aviano, ha rassicurato. We can feel very safe. Potete sentirvi al sicuro, ha detto. Io stesso ho portato qui moglie e quattro figli. Questo è un posto sicuro e continuerà ad esserlo anche in futuro. La cerimonia di formale avvicendamento tra i due ufficiali, con l'inno italiano intonato dal figlio di un ufficiale americano che ha imparato la lingua frequentando il locale asilo, si è svolta anche alla presenza di numerose autorità del territorio ed è stata introdotta dal comandante di divisione terza Air Force a Ramstein, Germania, generale Derek Franz, che ha definito Aviano come una delle migliori destinazioni per un comandante. La base ospita 5.000 tra militari e civili statunitensi e 4.000 dei loro familiari, due gruppi di volo F-16, oltre a due squadroni di elicotteristi e personale specializzato nella ricerca e soccorso. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In lutto il mondo della musica. Fulvio Coceani, grande appassionato di musica e di jazz, colonna portante del Circolo Controtempo e di festival di grande successo come Jazz and Wine of Peace, è morto improvvisamente domenica notte, stroncato da un malore nella sua casa a San Lorenzo Isontino. Aveva 66 anni. A dare il triste annuncio è stato lo stesso Circolo Controtempo. Torna a Trieste il soprano Carmela Remigio, stella internazionale della lirica che nella città giuliana si era esibita nella Lucrezia Borgia nel 2020, andata in scena poco prima dello scoppio della pandemia. Stasera invece al Castello di San Giusto canterà un'aria di Beethoven a Perfido, accompagnata dall'orchestra Lafil della Filarmonica di Milano, che proprio oggi comincia una residenza artistica a Trieste nell'ambito del progetto Beethoven della Società dei Concerti. La direzione è affidata a Felix Mildenberger. Saranno proposte di Beethoven anche l'Overture dalla Creatura di Prometeo e la Sinfonia numero 5. Abbiamo intervistato Carmela Remigio, che ci ha presentato l'esibizione di stasera. In sottofondo sentiremo una registrazione della stessa cantata di Beethoven eseguita da Maria Callas negli anni 60. Ho cantato questo brano meraviglioso più volte sotto la direzione di alcuni importanti direttori e l'ho amato tantissimo, lo amo tantissimo, perché è proprio una sintesi di teatro e musica sublime. Come è cambiato il vostro lavoro in questi due anni di pandemia? Purtroppo noi siamo stati molto penalizzati perché questo virus ha impedito, ecco, la socialità, e il teatro è fatto di socialità, è fatto di incontri. Noi abbiamo sofferto molto e ora ci stiamo un po' riprendendo, stiamo pagando ancora un po' questi due anni di clausure e anche di paura del pubblico di venire a teatro, però vedo che sempre di più negli ultimi mesi i teatri iniziano ad essere pieni e anche i concerti, quindi questo fa piacere, significa che la gente, il pubblico ha voglia di tornare a vivere la musica, emozionarsi attraverso la musica, senza paura soprattutto. Dopo l'esibizione di stasera, che cosa prevede la sua estate musicale? La mia estate per la prima volta prevede un bel periodo di vacanza e di studio in Abruzzo, che è la mia terra di origine, e sono felice anche di poter passare un periodo di riposo, perché gli artisti hanno anche bisogno di un periodo per pensare e studiare. Subito dopo settembre ricomincerò con una lunga tournée di concerti con la Verdi di Milano, la Messa del Requiem, e poi ci sarà Notte di Figaro di Mozart in Spagna e di nuovo Mozart in Italia, Reggio di Parma. Le 7.41, siamo allo sport. Si è fermata ai quarti di finale l'avventura di Mara Navarria ai mondiali di scherma in corso al Cairo, in Egitto. La spadista friulana è stata sconfitta da Vivian Kong, atleta di Hong Kong, per 12 stoccate a 11. Tennis, presentati gli internazionali di Cordenons. Il 24 luglio partirà il torneo femminile, attese atlete di fama mondiale come la francese Cristina Mladenovic. Dal 31 luglio invece in campo gli uomini. Doppio appuntamento sulla terra rossa dei campi dell'Euro Cordenons. Il torneo ITF femminile partirà il 24 luglio con un montepremi da $60,000. In copertina la 29enne francese Cristina Mladenovic, attuale numero 120 del mondo ed ex top 10 nel 2017, che vanta 2 titoli WTA in singolare e 6 titoli dello Slam in doppio. La testa di serie numero 1 del tabellone sarà la 23enne ungherese Panna Utvardi, numero 100 del ranking WTA. Riflettori puntati anche però sul talento della 17enne ceca Linda Fruvirtova. Dal 31 luglio in campo i maschi nel Challenger da $50,000, secondo in regione per importanza del montepremi, soltanto al torneo che si sta giocando a Trieste. Nella 19esima edizione il favorito sarà il ceco Zdeněk Kolar, numero 113 ATP, che nel recente Roland Garros ha sfiorato l'impresa contro Stefanos Tsitsipas. Il numero 2 del seeding sarà l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, fratello del campione uscente Francisco, attualmente numero 114 della classifica mondiale ATP. A caccia di punti l'ex numero 25, il bosniaco Zmur, ma il tifo degli appassionati sarà tutto per Riccardo Bonadio, il 28enne di Azzano Decimo, che quest'anno ha scalato la classifica ATP fino a raggiungere il proprio best ranking al numero 188, grazie anche alla finale nel Challenger di Bratislava. In tabellone anche Flavio Cobolli, 145 ATP, e il 19enne Luca Nardi. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due tennisti italiani, continuiamo a parlare di tennis, hanno salutato subito il Città di Trieste Challenger, torneo ATP dotato di un montepremi di €90,000 che si disputa sui campi in terra battuta del tennis club triestino. Andrea Pellegrino ha subito la rimonta del francese, testa di serie numero 8 Alexander Müller, che si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-2. Nel match clou di ieri sera Federico Gaio si è invece arreso allo slovacco numero 1 del tabellone e 116 del mondo Norbert Gombos, che ha vinto per 6-2, 6-1. Bene gli altri azzurri, Francesco Passaro ha superato la sesta testa di serie, il serbo Nikola Milojevic, approdati al tabellone principale Giovanni Oradini e Samuel Vincent Ruggeri. Oggi gli incontri inizieranno alle 10, a mezzogiorno l'ex numero 6 del mondo, il francese Gilles Simon, affronterà il connazionale Geoffrey Blancaneau. Basket di A2, sarà derby friulano in Supercoppa tra Udine e Cividale, si disputerà il Palla Carnera domenica 18 settembre. Lo ha stabilito la Lega Nazionale Pallacanestro, che ha reso noti i gironi, calendario e formula di svolgimento della Supercoppa. 7 i gironi, Apu e Cividale sono state inserite nel girone arancione assieme a Pallacanestro Mantovana e Ferrara. Sia Udine sia Cividale debutteranno in trasferta l'11 settembre, Udine a Mantova, Cividale a Ferrara. La fase di qualificazione è strutturata su 3 gare di sola andata. Le 7 vincenti dei gironi e la miglior seconda accederanno ai quarti di finale in gara unica sul campo della squadra con la miglior classifica. Le 4 vincenti accederanno poi alla Final Four con in palio la Supercoppa. Calcio mercato, l'Udinese ha acquistato Adam Masina dai cugini inglesi del Watford, difensore italo-marocchino, classe 94, arriva a titolo definitivo e ha firmato un triennale. Cresciuto calcisticamente in Italia, nazionale marocchino, ha debuttato in A con il Bologna, con cui ha giocato 99 partite nella massima serie prima del trasferimento in Inghilterra nell'estate 2018. La Triestina ha preso il difensore centrale Gabriele Rocchi, classe 96, la scorsa stagione al Monte Rosi, sempre in Serie C. 2 cessioni invece per il Pordenone, Pasa va al Rimini, Butic al Cosenza. Pallanuoto, Trieste completa l'organico per affrontare al meglio il prossimo campionato di A1 maschile, ingaggiato con un contratto annuale il portiere Francesco Ghiara, proveniente dalla De Acker Bologna, con cui Ghiara, genovese classe 97, ha raggiunto la promozione nella massima serie dopo i playoff di A2. Presentata a Trieste la terza edizione del Memorial Figli delle Stelle, torneo di calcio tra rappresentanti di istituzioni, forze dell'ordine, giornalisti e 118 asugi per ricordare il sacrificio degli agenti di polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Appuntamento sabato prossimo, 23 luglio alle 17.30 sul campo di calcio del Primorez a Trebiciano. A dirigere gli incontri l'ex arbitro internazionale Fabio Baldas. Alle 7.47 apriamo la nostra rassegna stampa partendo dal piccolo di Trieste. In prima pagina la crisi Varsila, l'appello degli operai, tutta la città in piazza. Giovedì manifestazione sotto la prefettura, il sostegno del sindaco di piazza che dice io ci sarò, Trieste reagisca. E poi i passaggi della crisi, 90 giorni per fermare i tagli, oggi il confronto con l'azienda. Richiamo in prima pagina sul piccolo di Trieste anche per i risultati dei controlli sugli autobus, dai quali emerge che in particolare sui mezzi pubblici che portano verso Barcola, ossia verso il mare, viene trovato senza biglietto un passeggero su quattro. Ad aprire le cronache della città, le novità che riguardano la vecchia stazione ferroviaria di Campomarzio. Piano di rilancio nel vivo, da qui in treno a Miramare, si legge sul piccolo, e si punta a organizzare viaggi turistici in vagoni d'epoca per Slovenia e Austria, oltre che verso il castello. Passiamo al Messaggero Veneto, la prima pagina è la stessa per tutte le edizioni del quotidiano. Titolo principale, la scuola assume, 2000 prof entrano in ruolo, al via l'operazione per coprire i posti autorizzati dal Ministero, procedure da completare entro la prima settimana di agosto. Sopra c'è la fotonotizia sull'incendio al Città Fiera, donna intossicata, 15 animali morti. Fra le altre notizie in prima, sull'edizione del Friuli, impennata di costi per il cantiere dell'ospedale a Udine, dalla regione altri 5 milioni. Ancora per la cronaca, salvato dall'amico in spiaggia, parla il ragazzo di Gonars, era incosciente, gli ho fatto il massaggio. Passiamo al dorso del Friuli del Gazzettino, pattuglie nei boschi contro gli incendi, 80 forestali montano la guardia sul campo nelle zone più a rischio. La fotonotizia centrale sullo sport, la nuova maglia dell'Udinese, celebra l'era Birof. Per la sanità, quarta dose di vaccino in regione, numeri ancora bassi. L'edizione isontina del Piccolo apre in prima pagina con l'omicidio di Gorizia, la morte di Walter causata da un solo colpo in testa, è il titolo. Papa Lettera ha chiesto aiuto, aperte tutte le ipotesi, anche la caduta violenta dentro il garage. E ci sono le reazioni con lo shock di chi vive nel quartiere che dice mai accaduti, episodi simili. In prima pagina sul Piccolo di Gorizia e Monfalcone anche il ricordo di Fulvio Coceani, uno dei fondatori di Jets & Wine, mentre ad aprire le cronache da Gorizia sono gli approfondimenti sull'omicidio di domenica. La telefonata in fin di vita, Walter ha chiesto aiuto prima di morire in garage, Papa Lettera, 41 anni, soccorso dai sanitari, troppo gravi traumi alla testa, indagini per omicidio, ma non è esclusa la caduta violenta. Disposta l'autopsia, acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza, dell'ufficio postale e del vicino bar. A Monfalcone invece si notano gli effetti della siccità. Il canale dei dottori è rimasto all'asciutto, uno scenario lunare, titola il Piccolo, e riemergono i rifiuti. Lungo un altro canale, il Valentinis, dove proseguono i lavori del porticciolo, emergono invece buche assieme ai cavi di acciaio lasciati a terra. Il dorso di Pordenone del Gazzettino, il titolo principale è lo stesso dell'edizione del Friuli, sulle pattuglie nei boschi contro gli incendi. La fotonotizia centrale è invece sul record di nascite a San Vito al Tagliamento, 8 in un giorno. Il sondaggio, poi c'è si parla del sondaggio del quotidiano sull'ospedale di Pordenone. In 11.000 votano per recuperare il padiglione A. Ancora cronaca locale, città che cambia, in Vicolo Operai un nuovo sentiero per arrivare al largo. La prima pagina della cronaca interna di Pordenone sul Messaggero Veneto è invece sulla cronaca auto rovesciata in via Cappuccini, in arrivo fondi e task force anti-incidenti e per la sicurezza stradale. Fra le altre notizie, base di Aviano, rassicurazioni su Ucraina e rischio nucleare e poi Maxi Vincita a Fontana Fredda, il neomilionario si presenta e ringrazia. Alle 7.51 gli appuntamenti, il regista iraniano Ashkar Farhadi, protagonista di giornata del premio Amidei a Gorizia. La giornata di proiezioni per le varie sezioni si svolge tutta al Kinemax a partire dalle 10.30. Di Farhadi saranno proposti tre film, Il cliente alle 14, About Ellie alle 18.30 e Un eroe alle 21.15. Alla proiezione serale sarà presente lo stesso regista, due volte premio Oscar, che ritirerà il premio speciale sull'opera d'autore. Va in scena al Parco di Miramare a Trieste a partire da stasera e replica fino al 31 luglio la nuova edizione di Shakespeare in the Park, che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia produce in collaborazione con il Museo Storico del Castello e il Parco di Miramare. Lo spettacolo itinerante a cura di Paolo Valerio è composto da una serie di scene tratte da opere shakespeariane, momenti musicali e coreografici perfettamente incastonati nella bellezza del parco e del castello. Inizio alle 19.30. Nuovo appuntamento della rassegna dedicata a Pasolini alle 21 a Valvasone nel cortile della scuola Silvio Pellico, dove lo stesso Pasolini ha insegnato. Ci sarà un incontro col poeta italo-albanese Julian Zara e l'intervento di alcuni testimoni locali. A condurre sarà il poeta, scrittore e direttore artistico di Pordenone Legge, Gianmario Villalta. Altri appuntamenti per il Pordenone Blues Festival in concerto al Parco di San Valentino alle 20.30 i californiani Vintage Trouble e Kristen Kingfish Ingram, uno dei principali rappresentanti della nuova generazione dei grandi chitarristi blues americani. Nuovo concerto per il festival Nei suoni dei luoghi a Villa De Brandis a San Giovanni al Natisone di scena Mozart On Air. Il concerto vedrà protagoniste le più celebri composizioni del genio austriaco alle 20.30. Glauco Venier si propone al pubblico con il suo nuovo gruppo formato da giovani musicisti di grande talento. In programma anche un omaggio a Thelonious Monk a 40 anni dalla scomparsa a Trieste, al Parco di Villa Sartorio, alle 21. Carni Armonie, il trio andaluso composto dal soprano Natalia Labourdette, dal mezzo soprano Elena Resurressao e dal pianista Francisco Soriano sarà protagonista di un concerto monografico dedicato alla compositrice e cantante Pauline Viardot Garcia a Preone nella chiesa di San Giorgio Martire alle 20.30. E alle 7.53 si chiude questa prima edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Ludovico Fontana e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Vassia Krismancic. In redazione ha collaborato Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con l'informazione radiofonica regionale alle 11.05 il nostro flash, poi alle 12.30 una nuova edizione completa del giornale radio regionale. Grazie per essere stati con noi, buona mattinata, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.